Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. C'è un tema su cui oggi il dibattito è ancora embrionale, ma che sarà sempre più rilevante e riguarda i luoghi in cui viviamo, quelli della casa, quelli del lavoro, rispetto ai quali è necessario porsi la domanda seguente. Non si stanno prefigurando modi e tempi di vita, comportamenti, relazioni sociali che hanno bisogno di spazi diversi da quelli in cui abbiamo vissuto finora? Il Salone del Mobile, che aprirà in questi giorni a Milano, è una delle poche occasioni dove questo tema trova un suo momento di dibattito, di sviluppo teorico e pratico. Federico Pedrocchi ne ha parlato con Carlo Forcolini, uno dei più noti designer italiani, progettista di un tavolo che si chiama Leonardo, il quale molto semplicemente può assumere altezze diverse consentendo di consumare i pasti comodamente sdraiati sul divano. Bene, da qui si può partire accettando quella che è una tipica provocazione del design italiano, spesso anticipatore di cambiamenti, per parlare di nuove forme dell'abitare. Sentiamo. Qui ci potrebbe essere una musica tipo Star Wars e poi una grande scritta, la fine del tinello, che si approssima. Bella come idea, la fine del tinello mi sembra, come si dice in inglese, the end of the tunnel. Sono qua con Carlo Forcolini, che è uno dei nostri migliori designer italiani. Allora, incominciamo dal fatto specifico che la riguarda ed è un tavolo, perché poi dopo dobbiamo fare un giro, sì, più ampio. È un tavolo che va su e giù, sì, molto bello, in legno, e che ha un obiettivo specifico, cioè mangiare dove? Questo tavolo coglie in un cambiamento dei comportamenti e quindi si può benissimo pensare di poter mangiare sui divani, iniziando una sera in grande convivialità e finirla in questo grande spazio molto, molto più comodo che non mangiare sul tavolo comune e poi finire la sera dicendo andiamo a parlare in salotto, perché quando vai nel salotto è finito tutto. Perché è vero che si chiacchiera molto meglio a tavola, e perché non prolungare questa cosa incominciando subito? Assolutamente, ma la questione è che per creare convivialità bisogna che si stabiliscano e si stabilizzino dei rapporti spaziali precisi. Quindi o si è vicini, ravvicinati come stavo parlando, o si è lontani. Le cose poi, quando si cambiano repentinamente, invece creano confusione nelle relazioni. È per questo che poi la sera finisce quando si passa dal tavolo al divano. Adesso però allarghiamo, perché la domanda è questa: voi designer, di fronte a una casa che ha quella sua struttura da parecchio tempo, no? Con appunto il famoso tinello, il salotto, la cucina, la camera da letto, cercate di pensare che in fondo potrebbe avere delle forme diverse, più vicine anche magari ai comportamenti che già abbiamo nuovi e che si stanno delineando. Sì, io credo che noi in Occidente siamo veramente sopraffatti dalle quantità di cose, di oggetti che ci circondano. Quando si va nelle case normali, non nelle ville naturalmente, c'è sempre questo soggiorno dove c'è l'angolo pranzo, l'angolo salotto, eccetera, e sembrano, ai miei occhi almeno, un deposito di mobili più che altro. Allora l'idea è quella di dire: ma diamo più spazio alle persone, perché alla fine le persone sono molto più importanti degli oggetti. Quindi togliamo il tavolo da pranzo, le sedie, creiamo un grande spazio dove le persone circolano molto più liberamente, e questo crea un cambiamento anche di comportamenti, che è molto più vicino all'informalità, diciamo, del nostro vivere quotidiano. Tra l'altro si sta anche profilando, cioè c'è un documento dell'Unione Europea che dice che il 75% del prodotto interno lordo dell'Europa fra un 30 anni sarà sui servizi, e quindi stanno arrivando anche un'infinità di cose che si ordineranno da casa, tipicamente il cibo. Magari questo può non piacere a molti, ma certo, l'apparecchiare la tavola sembra qualcosa che si sta, no, entrando nelle nebbie. Sì, non si usa più, insomma, prima c'era la tovaglia, la cosa bene, perché era un rito, insomma, si celebra un rito quando si mangia. Poi siamo passati invece a quei quadrotti di tessuto, no, un po' così. C'è poi addirittura, come sta crescendo anche in Italia, si mangia ordinando il cibo da fuori. Quando metti quel cibo e lo consumi intorno a un tavolo da pranzo, ti senti male, perché ti aspetti una ritualità diversa. Su un divano diventa quasi una cosa ludica, anche divertente, insomma, fa parte dello spirito, no, della serata. Ecco. Diciamo che la configurazione attuale degli spazi abitativi riflette un'inerzia storica che deriva dalla casa aristocratica, poi la casa borghese che imitava la casa aristocratica, quindi la sala da pranzo, quindi il salotto buono, eccetera, fino a arrivare, come dire, alla caricatura delle case normali che imitano le case borghesi che imitavano le case aristocratiche. Ecco, io credo che dobbiamo invece equipaggiarsi per vivere la nostra attualità. Bene, grazie a Carlo Forcolini e Federico Pedrocchi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.